fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo, benvenuti a tutti, le 2:02 del mattino, sabato 22 dicembre 2018, e per essere precisi, guardando il calendario, mancano un paio di giorni a Natale, per 3, 2 se consideriamo la domenica, ma ancora più importante, mancano 7 giorni a un evento incredibile, perché dovete sapere che abbiamo qui un ospite d'eccezione, o meglio, tutti gli ospiti che abbiamo qui sono d'eccezione, ma questo lo è veramente, perché... solo il convento, neanche Barbara D'Urso ha avuto questo onore, noi sì. Ovvio. Abbiamo in esclusiva l'intervista con Spider-Man che si sposa. Spider-Man che si sposa. E quindi la grande domanda che vorremmo sapere è se... perché? La parte perché? Perché è assolutamente interessantissimo, ma la grande domanda è se si dimetterà da supereroe oppure continuerà nella sua lotta contro il male. Ma comunque con Mary Jane. Ah, beh, adesso lo capiamo meglio. Intanto, se ci vuol dire la sua vera identità, se se la sente oppure no. Noi ti stiamo ascoltando. Non lo so, è che è un lavoro difficile, quindi... No, so. ma di la verità. Spider-Man. Mantieni l'anonimato? Va bene, mi chiamo Mirko con la Mirko? K. Ok, Mirko con la K, che è un nome inventato. Comunque, No, dicevano con la C. Beh, c'è questo, insomma, perché dubbio. Cane da caccia. Quindi Mirko con la C. E dove abiti adesso, Mirko con la C? O anche Spider-Man? Nella Gotham di Lonigo. Nella Gotham di Lonigo, bello. E... allora, e chi è la fortunata che ti ha rubato il cuore? Wonder Woman. No, è Mary Jane. Mary Jane. Come si chiama? Francesca Mary Jane. Francesca Mary Jane. E come ha fatto a conquistarti? E soprattutto, altra domanda importante, è stata una delle persone che hai salvato o non c'entrava nulla con la tua avventura da supereroe? L'hai salvata. Diciamo che l'ho salvata. Ma ti sei tolto la maschera? Perché in radio non mi vedono, quindi siamo... Ok, ma non è vero, attenzione, perché il primo bacio, cioè ve lo siete dati guardandovi? No, o tu avevi la, lingua, avevi la testa al contrario? Avevi la testa al contrario. È davvero cane da caccia. Upside down come da tradizione. Io ero testimone. Mi hanno calato sulla basilica di Vicenza. Bello. Tu eri quello che mandava giù la pioggia. Sì, pisciava dall'alto. Esatto, eri quello. Con la gamba alta. L'effetto ragazzi, è stato emozionante. Siete un bracco di ignoranti. È stato molto bello e da quel momento in poi abbiamo deciso andare a convivere insieme. Ah, così? Più che il colpo di fulmine. Ma avete un bioparco dove vivere? Cosa avete? Dopo il primo bacio, Sì, certo, poi abbiamo Gotham, quindi. Sì, ma è la caverna, è confortevole. Ma Gotham è tua, quindi. C'è il Batmobile. Ma quello è un altro, amico mio. È un altro supereroe. Gotham è di Batman, tu sei. Ma Batmobile è di un altro. Ma che Spider-Man? A lui è tutto, dice. È lo Spider di Gotham. Ah, più potere, più supereroe. Allora. Gotham è di Batman. Anche Spider-Man. Tu che cazzo c'è? Ma non dire le parolacce. Non ha ragione quella. No, comunque Spider-Man, io non sono Spider-Man, quindi sono dove lavoro. Spider-Man abitava a New York, comunque, dicendole un attimo. Sono un po' di confusioni geografiche e stiamo mischiando vari supereroi. Comunque sei bello. Stiamo cercando di capire. No, ma è giusto, ma... guarda che la gente che ci ascolta vuole chiarezza, cioè vuole capire le cose. Tu sei lo Spider-Man di Gotham. Certo. È come dire, tipo Sailor Moon di Dragon Ball. No. Bello. Tu? Beh, adesso sei. Beh, Dragon Ball è un cane da caccia, comunque. Se ci pensi è la realtà delle cose. Io sono d'accordo con lui, comunque. Ci sta. Come ragionamento. Devi avere della coerenza se vuoi fare supereroe. Ma che ti scelgono come supereroe se non sei coerente? Comunque so dove lavoro, io lavoro a Gotham. Ok, allora ragazzi, è di Gotham. E vorremmo anche un po' sapere come nascono i tuoi superpoteri. Cioè, ricordaci un po' come da essere umano diventi supereroe. Esatto. E come diventi cane da caccia soprattutto. Esatto. Che faccio la cane da caccia che hai, vai, dimmelo. Com'è sostanzialmente nato? Un giorno andando a vedere... Perché fai la voce cupa? No, è che non questa è la mia voce. Non sei Batman, sei Spider-Man. Voce, ma tu... Spider-Man è un cazzone tendenzialmente. Non devi dire le parole. Hai ragione. Siamo in fascia protetta. Tanto guarda quelle ragazze di davanti, sono spettacolari. Beh, adagno, ciao. Comunque, vi stavo dicendo che un giorno sono andato ciao, cagna da caccia. Una mostra, ho aperto una teca, un ragno mi ha morso e io sono diventato Spider-Man. Nel tuo ragno. E come hai conosciuto la tua regina? era una discoteca, in briago. Quanto possiamo spingerci avanti? No, che avanti, che cioè, nel senso, ma come è cambiato? Dimmi la tua prima volta, la tua sensazione sessuale quando sei un supereroe. Queste sono le domande importanti. Forse un po' di invidia, magari, ma anche. Ma certo, io lo chiederei a un supereroe. Ma certo, ma certo. Non hai mai visto le sue americane. Esatto. Tu pensi, cioè, è wonderful. Ma quando sei un supereroe, Wonder Woman, altre cose a livello sessuale. Sono molto più performante. Oh no, ma perché ti ha mosso il ragno? Perché secondo me l'ha mosso il ragno. Le spari con le ragnatelle. Madonna, Dio, anche quello interessante, cioè la ragnatela, cioè nel senso dov'è posizionata la ragnatela? È qui. Nel tunnel carpale. Nel tunnel carpale. Ah, champagne. In realtà io sono il suo amico, no? Ah, tu sei come. No, non c'è la Spider-Man nel braccio destro. Il famoso. Il Robin di Batman. Io sono il Robin di Spider-Man. Il Robin di Spider-Man, ragazzi, sì. Piacere, mi chiamo Andrea, sono il Robin di Spider-Man. Nessuno l'ha mai sentito. Non dire il tuo nome, che dopo tutti vengono in. Ad ogni modo, lui è venuto a me un giorno e mi fa: ragazzi, io sparo ragnatele dei polsi. E io l'ho guardato e ho detto: come potremmo usare questo super potere per adagiarci alla società moderna? Cioè, certo. Andiamo a caccia. Nel senso, tu ad una media vedi qualcuno che rovescia un bicchiere, tipo in un contesto di una serata, lo salvi. Lo salvi, cioè, certo. E diventi superato di tutti. E ti dirò di più: aiuti le nonnine a fare la spesa, a prendere i prodotti nei ripiani più in alto. Esatto. Perché tipo, quando la nonnina non ci arriva, o anche una ragazza bassa, no, buona e carina, in realtà lui non usa. Lui schizza e raggiunge con la ragnatela, no, esattamente. Non lo usa per così. No, poco. Parliamoci con che swag lo fa, vero? Wow. Mi serve il piacere. È molto trap comunque. Esatto, esatto. Siamo trap! Perfetto, perfetto. Ragazzi. È utilissimo. In ogni modo siamo felici di augurarti un buonissimo matrimonio. Esatto. Anche perché manca pochissimo, manca veramente pochissimo. Se cambi lavoro, ricordati che sai fare anche il cane da caccia, quindi. Una settimana e poi ti sposi. Una settimana è non esatta. Non sarei più dei nostri. E ricordo a tutti che il 29 a Gotham City alle ore 13 chiuderà. Non diamo troppi dettagli perché sennò tutti i malviventi si riuniscono sapendo che tu sei in pausa, in sciopero, e ci sarà una valanga di crimini nel mondo. Pieno di cagne. Per invitare tutti al tuo matrimonio. Dai, fai una dichiarazione. Fai una dichiarazione. Bello Spidey, molto Spidey. intimo Spidey. Come Dio comanda. Solo per gli intimi. Ti amo Mary Jane. Sì, Mary Jane. Wow. Bello, toccante, emozionante. È molto hard. Emozionante. Siamo stati bravi, no? Bravissimi. Bravi on air. Dei bravi. Non abbiamo più voce. Ma capisco che cantando si perde. Per chiunque ci ascolti, vi auguriamo una bellissima serata. Siete da fuoco tutti e noi continueremo al convento a bere e divertirci. A divertirci e that's it, no? Perfetto, io mi permetto di intromettermi per fare ancora tantissimi auguri al nostro Spider-Man, al nostro Mirko, che è il vero motivo di questa serata. Grazie mille al convento e a tutti quanti per averci seguito. E i cani da caccia qua in diretta. Grazie mille di tutto. Viva Luigi e i suoi amici. Grazie a voi, auguri Mirko. Ciao, grazie.